Disco Della Settimana. Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio, che non mi piace per niente ma devo sorridere sempre? Che ne sai tu che non è mai il momento? Che ne sai tu che ho perso il sonno e fuori è brutto tempo? Che ne sai tu della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso? E che ne sai tu che a Milano non si vede niente con la neve che c'hai, la nebbia che hai negli occhi? E che ne sai tu che nelle foto sono cose belle e non ci credo mai, non ci credo mai, non ci credo mai? E che ne sai tu delle canzoni di Vasco, di quando strilla come un pazzo e mi fa stare meglio? E che ne sai tu? E tu e i tuoi 5 anni di giurisprudenza, come sei bella nelle foto, sorrisoni con la loro in testa. E che ne sai tu? Che a Milano non si vede niente con la nebbia che c'hai, la nebbia che hai negli occhi. E che ne sai tu? Che nelle foto sono cose belle. Se non fingevi, e che ne sai tu? Che a Milano non si vede niente con la nebbia che c'hai, la nebbia che hai negli occhi. E che ne sai tu? Che nelle foto sono cose belle e non ci credo mai, non ci credo mai, non ci credo mai. Io non ci credo mai, non ci credo mai, non ci credo mai. Io non ci credo mai, non ci credo mai, non ci credo mai. Io non ci credo mai, non ci credo. E che ne sai tu? Che non è mai il momento. Che ne sai tu? Che ho perso il sonno e fuori è brutto tempo. Che ne sai tu? Della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso. Oggi solo cose belle, mi raccomando. Sì, perché vogliamo iniziare questo giugno con un disco della settimana che scegliamo per darvi la carica, anche perché inizia un po' a prendere via l'estate, iniziamo a fare cose, quindi il disco della settimana di Mauro Erika per voi si chiama Solo Cose Belle, cioè ci sembrava effettivamente emblematico, no? Cioè nel senso un titolo adatto per mandarvi un ottimo messaggio. Sì, intanto è un pochino che non facevamo dischi della settimana, quindi siamo contenti di tornare a proporvi anche delle uscite musicali, perché nelle ultime settimane abbiamo fatto un po' di interviste, visto i festival, rassegne, concerti che finalmente stanno tornando e stiamo tornando a vedere anche noi. Adesso torniamo a parlare di dischi, perché Solo Cose Belle è una cosa bella assolutamente. Allora, comunque vi ricordiamo che l'altra rubrica che stiamo facendo, che ha cambiato nome momentaneamente per l'estate, si chiama Festival Passport. Prima erano interviste possibili, adesso Festival Passport, perché vi vogliamo raccontare appunto gli eventi che potete godervi anche voi insomma in quest'estate. Ma dopo questo momento pubblicità, advertising moment, arriviamo a Solo Cose Belle, che è il disco uscito il 4 giugno, quindi pochissimi giorni fa, che è il nuovo album di Comete. Perché anche le comete sono cose belle. Sì? Sì. A me piacciono. Ma sì, stelle comete, così uno... Comunque è disponibile appunto su tutte le piattaforme digitali ed è un album che è stato anticipato da alcuni singoli. Glovo, molto particolare, molto legato forse anche al periodo, Ma Tu, Cornflakes e Naftalina. Oltre a questi singoli già pubblicati c'è la traccia d'apertura che è Carlotta, la title track Solo Cose Belle che abbiamo appena ascoltato e poi Diazepam e Non Ti Penso Più. Questi sono tutti brani contenuti all'interno di questo album. A questo punto io direi che potremmo continuare a scoprirlo e ascolterei, se tu sei d'accordo, Carlotta. Sono d'accordo. Che è un pezzo che mi è piaciuto molto ed è appunto anche la prima traccia che apre Solo Cose Belle, che ricordiamo è il nuovo album di Comete. Sarebbe bello aprire gli occhi adesso, vedere solo il mare, è già tardi, non c'è neanche il tempo per fare colazione. Carlotta, lo so, hai da fare sempre mille cose, dai ragione pure tu se dici sono stanca, non mi va di uscire. Sarebbe bello aprire gli occhi adesso, vedere sempre il sole, ma fuori il cielo è grigio, poi c'è troppo rumore, dicono che piove. Voglio solo una spiaggia, il sole a picco sulla pelle e il sale, ma vedo solo gente sopra gente, in coda tangenziale. E ci buttiamo sopra il letto stanchi, dormiamo un po', dormiamo. Tu chiudi gli occhi e dici che mi ascolti, domani poi vediamo. Però a volte mi sembra che sei come l'unico mi piace su un post, come l'unico posto sicuro dove nessuno sa come sto. E come sto, oh oh, sto bene come sto, e come sto, oh oh. Sarebbe bello aprire gli occhi adesso, senza niente da fare, e invece è tardi, non c'è neanche il tempo per fare l'amore. Voglio solo una spiaggia, il sole a picco, un clima tropicale, ma sono in metro, un tipo sta parlando di strategia aziendale. E ci buttiamo sopra il letto stanchi, dormiamo un po', dormiamo. Tu chiudi gli occhi, dici che mi ascolti, domani poi vediamo. Però a volte mi sembra che sei come l'unico mi piace su un post, come l'unico posto sicuro dove nessuno sa come sto. E come sto, sto bene come sto. E come sto, oh oh, sto bene come sto, oh. Occhi adesso, vedere sempre il sole, ma fuori il cielo è grigio, poi c'è troppo rumore, dicono che piove. E come sto? Sto bene come sto. E come sto? Oh oh, sto bene come sto. E ci buttiamo sopra il letto stanchi, dormiamo un po', dormiamo. Tu chiudi gli occhi, dici che mi ascolti, domani poi vediamo. Però a volte mi sembra che sei come l'unico mi piace su un post, come l'unico posto sicuro dove nessuno sa come sto. Ma continuiamo a scoprire solo cose belle, perché vogliamo così, appunto, avere un mese divertente e solo cose belle, appunto, un titolo che viene definito emblematico perché rappresenta per il cantautore, che si chiama Eugenio Campagna ma ha scelto come nome d'arte appunto Comete, una testimonianza del passato e un consapevole punto di partenza per il futuro. Quindi è un, come dire, un mantra positivo, se vogliamo metterla così, no? Se vogliamo definirlo in questo modo. Eugenio dice che solo cose belle è un album nato per strada, perché lui faceva il busker, andava in giro a suonare per strada col cappellino o la custodia della chitarra, in cui venivano buttate le monetine di rame che ti danno come resto dal panettiere. Comunque, proprio a partire da quel bagno di realtà, dice, l'album racconta tante storie vissute durante quel periodo e quel momento di vita in cui l'artista si trovava faccia a faccia ogni giorno con gente nuova, gente diversa, che dava anche feedback diversi, perché non è sempre semplice fare il busker. No, e lui... anzi, effettivamente, io mi ricordo, a parte festival bellissimi con il Buskers Festival, che appunto è qua vicino, è a Ferrara, dove però viene invasa la città da artisti autorizzati per mettersi a suonare dentro la città. L'ho fatto anch'io, mamma mia. L'hai fatto anche tu, infatti, ricordiamo, cioè, o dimentichiamo, dipende dai punti di vista. Però effettivamente, togliendo questi contesti autorizzati, molto spesso gli artisti di strada vengono, sì, magari guardati, ascoltati un po', col sorriso, tante quasi volte un po' di compassione ogni tanto. Ti dà, che sfigato che deve raccogliere, guadagnarsi il pane suonando per strada. Invece no, cioè, poi Comete è un artista. Sì, no, poi abbiamo conosciuto anche, non so, Eugenio in Via di Gioia, facevano i buskers. La rappresentante di Lista, hanno iniziato come buskers, esatto. I Rumba de Bodas, un sacco di gente ha iniziato così. Un sacco di gente, e io poi spesso mi sono fermata a chiacchierare con artisti di strada, insomma, no, che poi magari erano amici di amici. Cioè, in realtà è bellissimo, secondo me, e molto spesso, appunto, poi si lascia la strada per andare a fare qualcosa di più commerciale, in un qualche modo, come in questo caso, come per Comete. Però lui ci dice, effettivamente, io mi sono ritrovato ogni giorno faccia a faccia con la gente, cercando di emozionare per portare a casa la pagnotta, come dicevi tu, no? Con le monete che ti lanciano, e nel frattempo vivere le mie gioie e le mie sconfitte. Quindi racconta appunto i lati positivi e anche negativi di quello che è appunto Comete. Comete è un diciamo un artista che si definisce un cantautore real pop e raccoglie ciò che Eugenio ha realmente vissuto, e in questo si vede anche la copertina che è realizzata da Gio Pastori, che realizza un occhio e riflette un orizzonte luminoso, ma che allo stesso tempo emoziona anche nel bene e nel male. Sì, la copertina piena di colori rappresenta appunto questo tramonto sul mare dentro un occhio, con delle lacrime che proseguono dal mare, scendono verso il fondo della copertina, mettiamo così? Probabilmente sì. Prima di scoprire allora nuovamente qualcosa di più su Comete e anche appunto sull'album Solo Cose Belle, io continuerei ad ascoltare una delle 9 tracce che compongono questo album. L'ascolterei, se ti va, Glovo, sono curiosa. Mi va. Va bene. Se è proprio vero che la paura qui non uccide sentimenti, noi ci siamo persi nella spazzatura di cose non dette, di discorsi spenti. Se tu sei proprio così sicura, allora perché non smetti di mangiarti le unghie col telefono in mano mentre guardi i miei ultimi accessi? Ma che ci siamo fatti? Ma perché siamo fermi? Si sta fermi se si aspetta il tram, mica si aspetta di vedersi ancora e con gli stessi occhi. Se non lo sapessi che i tuoi occhi la mattina sono verdi e che stasera sono un po' spenti, ed io che sono qua nel letto solo con le buste di Glovo, che se poi esco magari ti trovo con la testa da un'altra parte, con il cuore solo, solo con un cuore ed una coca zero, che se poi scendo la butto nel vetro, ma ancora non credo, non credo di volere buttare te. C'è una cura per i tuoi tormenti, lasciati un po' andare, non ti affaticare, le cose arrivano quando più non te l'aspetti. E poi non fare quella faccia da dura, proprio non ci riesci, che quando parli sei così sicura, ma nella tua testa balbetti. Perché ci siamo fatti? Ma perché siamo fermi? Come se non lo sapessi che i tuoi occhi la mattina sono verdi e che stasera sono un po' spenti, ed io che sono qua nel letto solo con le buste di Glovo, che se poi esco magari ti trovo con la testa da un'altra parte, con il cuore solo, solo con un cuore ed una coca zero, che se poi scendo la butto nel vetro, ma ancora non credo, non credo di volere buttare te. Siamo fermi, come se non lo sapessi che i tuoi occhi, che i tuoi occhi, che i tuoi occhi, e io che sono qua, ed io che sono qua, ed io che sono qua, nel letto solo con le buste di Glovo, che se poi esco magari ti trovo con la testa da un'altra parte, con il cuore solo, solo con un cuore ed una coca zero, che se facendo la butto nel vetro, ma ancora non credo, non credo di volere buttare te. Di volere buttare te. A questo punto abbiamo un po' detto cosa pensiamo noi, abbiamo un po' detto la storia di abbiamo cazzeggiato anche parecchio, però va bene così. Cazzeggiato anche parecchio, però quello che ci piacerebbe anche dirvi è quello che Comete racconta di quest'album e di questa esperienza. In quest'album parlo con verità delle mie esperienze, ci dice Comete, dalle gocce di benzodiazepine per dormire alle buste di Glovo in casa dopo la rottura. Ecco, vedi che ogni canzone c'ha il suo significato legato alle esperienze di vita. Meno male, probabilmente racchiude un po' il significato complessivo. Meno male è una canzone. Forse per me deciderei anche il momento giusto per amare, così non ci rimango male e nessuno si fa male. Ma meno male che non tutto dipende da me. giusto? Eh già, vogliamo tutto e subito e deve essere esattamente come vogliamo noi, ma la vita non è così, non sono solo cose belle. E per fortuna, in tutto quello che non possiamo scegliere, che ci fa male, c'è la nostra vita, unica, bellissima, imperfetta. È poetico come te, eh? Assolutamente. Beh, anche nei testi comunque l'abbiamo sentita la poesia del esatto. cantautore. E infatti poi Comete aggiunge che solo cose belle è un percorso terapeutico e di accettazione, dove Comete scopre l'importanza di essere grato per tutto quello che arriva lungo la strada, quindi effettivamente quello di positivo e quello di quello che può arrivare di positivo o di negativo, anche quando è inatteso e non è proprio il massimo della vita, cioè quando proprio dici vabbè, avrei fatto anche a meno in un qualche modo. La cosa bella è che lui dice: io ho queste storie, queste cose positive o negative, ho voglia di condividerle con voi. E proprio per quello appunto è nato quest'album Solo Cose Belle, che ricordiamo è uscito pochissimi giorni fa, il 4 giugno, ed è il primo album di Comete. Tra l'altro io mi immagino un po' la tracklist, no? Che adesso vi racconto. Allora, la prima si chiama Carlotta e l'abbiamo già ascoltata. Che però forse la Carlotta... E parla di che la Carlotta l'ha lasciato forse. Allora lui ordina Zublovo, gli arriva a casa qualcosa. E allora lì mangia, guarda il tramonto e dice, vabbè dai, ci sono solo cose belle. Uh-huh. Però poi prende il diazepam perché è stanco e deve dormire, fa no? Fatica di dover dormire, sì. La mattina, ma tu, e ci ripensa un po' la Carlotta, ma tu quindi... E poi dice, ma meno male, forse che è andata così, e fa colazione con i Cornflakes, è la traccia numero 7. Poi apre il cassetto per prendere la maglia e vede che c'è la naftalina, e quindi scrive una canzone che si chiama Naftalina e dice: e non ti penso più. Ok, cioè quindi è tutto un racconto fatto con i titoli, è un cerchio, anche secondo me, sì. Ok, vabbè, vediamo che magari Comete ce lo farà sapere. Insomma, detto questo, continuiamo allora a scoprire questo album e ascolterei Meno Male. Ma meno male che l'ascoltiamo questa canzone. Vorrei il cash per andare a Los Angeles a vedere se ci sono le cose che fanno per me. E vorrei te e andare fuori a mangiare e poi pensare che l'amore esiste e ti vorrei sposare. Fosse per me decidere anche il momento giusto per ridere come le vecchie sitcom americane, con gli applausi in sottofondo che non sai da dove vengono. Ma a me non male che non tutto dipende da me, non male che non tutto dipende da me, non male che non tutto dipende da me, non male che vorrei un jet per volare sopra il traffico alle 3 e Courmayeur poi Saint-Tropez, di certo non andrei al lavoro. E vorrei te bellissima sempre anche senza trucco e senza inganno, senza brutto tempo, nudi come a fusto. Fosse per me deciderei che il momento giusto per amare, così non ci rimango male e nessuno si fa male, nessuno si fa male. Ma a me non male che non tutto dipende da me, non male che non tutto dipende da me, non male. Non tutto dipende da me, non male che vengo da te, mi dici sali, non ho voglia di uscire, sto un po' giù, vieni, volevo solo un po' parlare. Vengo da te, mi dici sali, non ho voglia di uscire, sto un po' giù, vieni, volevo solo un po' parlare. Me non male che qualcosa dipende da me, non male che qualcosa dipende da me, non male che qualcosa dipende da me, non male che non male che non tutto dipende da me, non male che qualcosa dipende da me, non male che non tutto dipende da me, non male che è tutto giusto, tutto giusto, tutto un po' casino. Stiamo arrivando alla fine di questo disco della settimana, che ricordiamo si chiama Solo Cose Belle, e che è un album molto particolare, molto intimo, che racconta tante cose che riguardano il musicista che l'ha creato, Eugenio Campagna. La cosa carina è che abbiamo guardato il suo profilo Facebook per scoprire un pochino com'è Eugenio Campagna, cosa voleva dirci, e la prima cosa che salta all'occhio è: vivo, amo, odio, piango, rido, scrivo come te. È un po' la descrizione. Quindi non è come te, ma è come te, o è entrambi. Probabilmente, non lo so, c'è la possibilità di leggerlo. Come diceva Vasco Brondi, le comete come te. Lo diceva, me lo ricordo, sì. Vasco Brondi, tra l'altro ricordiamo che è l'estate di Vasco Brondi che suona dappertutto. Esatto. Comunque, continuando un po' a guardare appunto il profilo Facebook di Eugenio Campagna, cioè Comete, vi invitiamo anche a voi a seguirlo. Insomma, spiega in diversi post che lui ha sempre provato a dare il massimo e a cantare tutti i giorni e anche a spiegare che quello era il suo lavoro a persone che delle volte facevano un po' fatica a farlo. Quindi diceva che si esibiva 4-5 volte a settimana per le strade di Roma, perché lui è di Roma, cantava per tutti e insomma può dire di averlo fatto sempre dalla strada a diversi palchi, però lo racconta appunto come un momento anche di difficoltà nel far capire che quella era stata la sua scelta e il suo stile di vita. Insomma, quindi siamo molto contenti di poter leggere dei post così belli di musicisti che raccontano queste storie, quindi vi invitiamo a continuare a scoprire gli album, le canzoni di Comete. A questo punto non sappiamo se ci sono delle date, perché purtroppo non riusciamo a trovare informazioni da nessuna parte riguardo a questa cosa, ma voi rimanete collegati perché sicuramente in un qualche modo verranno scritti su tutti i profili di Comete. Però vi salutiamo però con un'ultima traccia. Chiuderei con la traccia finale dell'album Solo cose belle di Comete. Così chiude lui dicendo: e non ti penso più. Ciao, ciao. Ciao, e adesso ci ascoltiamo: e non ti penso più. Parlerò di te solamente quando bevo troppo, non ti penserò, specialmente quando prendo sonno. Non sogno che domani mi risveglio dentro un gran bel posto, un gran bel posto, sì, che al momento non ricordo. Quando penso a te, le mie mani perdono il controllo, non ti tratterò solamente come un video porno. Parlerò di te, specialmente quando bevo troppo, e bevo troppo, sì, e nemmeno me ne accorgo. Ehi, frasi da farti finire ma tu non ci sei. Ho un letto che vorrei dividere ma non con lei. Che lo sai, la notte sembra tutto bello, poi sapessi quanto parlo. C'è solo il terzo e non ti penso più. Parlerai di me, di sicuro cambierai discorso, forse non lo so, ma le tue amiche parlano un po' troppo quando pensi a me. Spero almeno sarà un bel ricordo, sì, che al momento non ricordo. Ehi, ho frasi da farti finire ma tu non ci sei. Ho un letto che vorrei dividere, sembra tutto bello, poi sapessi quanto parlo. Giuro solo il terzo e non ti penso, e non ti penso più. Ehi, ho frasi da farti finire ma tu non ci sei. Ho un letto che vorrei dividere ma non con lei. Che lo sai, la notte sembra tutto bello, poi sapessi quanto parlo. C'è solo il terzo e non ti penso più. Io non ti penso più. E non ti penso più.